Amen. Che bello, Chiesa! Sì? Sei contento? Sei contenta? I miei figli sono sempre super entusiasti. Stamattina l'entusiasmo di Abram gli ha fatto dire in macchina: mamma, ma Satana chi l'ha creato? Quindi se non ti svegli bene, devi essere sempre pronto con i bambini. E quando questa settimana abbiamo parlato dei giorni della settimana, Abram era molto scontento che ci fossero solo 2 giorni di festa dall'asilo. Cioè vuole 10 giorni di festa e 2 giorni dell'asilo. Però gli piace la domenica perché si esce e si va in chiesa. Un entusiasmo che i miei figli, ho pensato, da 2 anni hanno mancato i culti solo per il Covid e da 2 anni il loro entusiasmo non diminuisce ma si amplifica. Cioè solo loro. E con questa frase voglio già anticiparti il tema di oggi. Oggi parleremo delle distanze. No, basta. Oggi parleremo del Covid. No, basta. Sono cadute finalmente le distanze. Amen. Avete visto che non ci sono più questi brutti segnali sulle sedie. Mamma mia, chi non vedeva l'ora? Io non vedevo l'ora. È stato così antipatico per 2 anni vivere la Chiesa in questo modo. Sì, ti puoi unire, tanto ormai non ce n'è più Covid, non è vero, ce l'abbiamo ancora, però siamo per lo più vaccinati. Da 2 anni, Chiesa, 2 anni di Covid. Oggi voglio parlarvi dell'entusiasmo legato proprio al Covid, perché il Covid ha avuto un effetto su di noi, non solo fisico. Noi abbiamo avuto il Covid un mese e mezzo fa e stiamo ancora riprendendoci fisicamente. Ma i 2 anni di pandemia hanno avuto su tutti noi un effetto che nessuno poteva classificare, che nessuno poteva preannunciare. Voglio farvi vedere dei grafici per deprimerci un poco, ma poi parleremo dell'entusiasmo, ok? Quindi voglio farvi vedere la prima slide, scusate, non ho fatto in tempo a tradurlo. Però questo gruppo Barna è un gruppo di ricerca che fa anche ricerca nelle chiese. E questo gruppo ha fatto questa ricerca, cioè che negli ultimi 2 anni, cioè l'effetto che la pandemia ha avuto sulle chiese, è che chi andava in chiesa, solo il 35% di chi andava in chiesa va ancora in chiesa. Il 14% delle persone, il 14% ha cambiato chiesa. Aveva una chiesa prima del Covid e ora ce ne ha un'altra. Il 32% ha smesso di andare in chiesa durante il Covid. Ultimo dato, il 18% ha tante chiese. Sta seguendo tante chiese online. Non so se voi siete rimasti a casa qualche domenica e tutti quanti noi abbiamo Facebook, basta scorrere l'home page per vedere tutte le chiese. E io ho fatto questa prova, ho detto la musica non mi piace. Questo predicatore proprio no. Ah, ma come sta vestito male questo? No, questo, il palco è brutto, non riuscirei mai a seguire. E poi un altro, ho detto, ma come parla questo? Ma che accento ha? I miei filtri sono entrati in questo 18%. Mi vado a cercare la chiesa più bella, più rispondente a me, quella che mi fa stare bene, anzi, quello il cui messaggio mi garba. Seconda slide, per piacere. Queste invece sono altre percentuali che hanno a che fare con l'età. Ora voglio spiegare cosa sono i boomer, la generazione X e i millennials. I boomer sono chi è nato dal 46 al 65 circa, mia madre e mio padre. Quei boomer sono quelli che non sanno usare Facebook e che chiedono ai loro figli come fare. O quelli che mettono i fiorellini sui messaggi di WhatsApp. Quelli sono i boomer, ok? Se non sai chi sei e usi i fiorellini, tu sei un boomer. E non è un complimento, no, scherzo. Però i boomer sono i figli del boom economico, quindi del post-guerra. I boomer cosa hanno fatto durante il Covid? Il 40% dei boomer sono stati nella stessa chiesa, l'11% ha cambiato chiesa, il 26% ha smesso di andare in chiesa. Guardiamo la generazione X. La generazione X sono i nati dal 1964 al 1980 circa. E loro, stessa cosa più o meno, 31% è rimasto nella stessa chiesa, 17% ha cambiato chiesa, 35% ha smesso di andare in chiesa. Questo mi interessa. I millennials, Ho scoperto oggi di essere un millennials, che bello. Pensavo di essere... millennials sono tutti coloro che sono nati dall'81 al 96, diciamo così. Sì, Antonio, sei ancora lì. Anche se sei un po' boomer con i messaggi, Antonio, eh? Ah, vabbè. Lui... tu sei millennials, pastore? Non ci credo. Ah, di un mese, è vero, è vero. I millennials... 30% è rimasto nella stessa chiesa, 8% ha cambiato chiesa, 50% ha smesso di andare in chiesa. Un attimo solo prima dell'altra slide. Queste sono percentuali che hanno a che fare soprattutto con la chiesa negli Stati Uniti e le percentuali sono diverse da nazione a nazione, da stato a stato, ma anche in Europa, in particolar modo in Italia, le statistiche dicono che con il Covid circa il 30% ha smesso di andare in chiesa. Chiesa, questo cosa significa? 1 marzo 2020 noi avevamo qui i battesimi, ve lo ricordate? Ultimo incontro, dopodiché lockdown, nient'altro. La domenica dopo c'era il pastore da solo qui a leggerci il Salmo 23, proprio per augurarci una buona morte o comunque essere pronti a qualsiasi cosa sarebbe successo, giusto? Questo era un po' il senso. Questo vuol dire che chi era qui 1 marzo 2020? I tuoi fratelli e sorelle, anche a Mottola. Le persone che erano accanto a te 2 anni fa, una su tre non c'è più, e non perché sia morta di Covid, ma perché ha scelto di non venire più in chiesa. E la cosa assurda è che ha scelto di non andare in altre chiese. E per mio parere personale la cosa più assurda è di scegliere di seguire delle chiese online. Ultima slide. Questo parla di quello che invece i credenti si aspettano dalla propria chiesa. È una delle caratteristiche che si sentono annoiati dalla Chiesa e invece si sentono anche insicuri per la maggior parte del tempo. Guardate qua, che tipo di supporto tu chiedi alla Chiesa in cui vai ora? Questo è importante per noi Chiesa, perché la Chiesa non sono solamente i pastori o la squadra pastorale, la Chiesa siamo tutti, no? Quindi chiunque è entrato e chi hai accanto, tu sei Chiesa insieme a tutto il resto. Quello che si chiede oggi alla Chiesa è appunto preghiera e supporto nelle emozioni. Chi è rimasto in chiesa al 52%, chi ha cambiato chiesa al 68% e chi non va più perché non ha trovato la chiesa rispondente al proprio bisogno di cura nelle proprie emozioni. Un'altra categoria è che chiedono alla chiesa di essere centrati nella parola di Dio, di ricevere messaggio di speranza e di incoraggiamento. E anche questo, una buona parte non l'ha trovato, e l'ultima parte, trovare connessione e comunità. Non so tu, ma io ad un'analisi sincera ho vissuto tutti e tre questi bisogni. Cioè il bisogno di avere una chiesa che mi incoraggia, che mi dà speranza, che mi dà fede, una chiesa che mi cura nelle emozioni e una chiesa che è relazione. Se riconosco qualcosa di veramente potente che il Covid ha fatto, è proprio nelle distanze. Io potevo scegliere di chiamare qualcuno, oggi posso scegliere di invitare qualcuno a casa per pregare, oggi posso scegliere di parlare di Gesù con fervore alle mamme della classe dei miei figli, oggi posso chiamare Luciana, posso chiamare i pastori e dire possiamo pregare insieme, possiamo parlare insieme, ma non lo faccio. Perché? Perché c'è ancora quell'idea, quella distanza, quella preoccupazione. Con il Covid, se siamo preoccupati, con il Covid siamo diventati ansiosi. Se prima del Covid eravamo insicuri, ora con il Covid, post-Covid, siamo diventati totalmente insicuri e insoddisfatti. Se prima c'era un po' di amarezza, la musica, la temperatura, la barba del pastore è troppo bianca, deve farsi una tinta, ora è la barba del pastore bianchissima. Perché? Perché il Covid ha amplificato tutto. Ha giocato ad amplificare, ascoltatemi bene, non le cose migliori, ma le cose peggiori. Qui non siamo davanti ad una battaglia per la nostra salute fisica, qui stiamo davanti ad una battaglia per la nostra salute spirituale, oltre che emotiva e mentale. Per questo sono contenta che 1 aprile cadono le distanze, 1 aprile lo stato di emergenza finisce, perché la mia preghiera è che anche spiritualmente questo cominci a cambiare. Chiesa, le distanze sono finite. Chiesa, se tu vuoi incontrarmi per pregare, io vengo. Sai cosa? Non ti fare più limitare. Prima non avevamo difficoltà di imporre le mani su qualcuno. Non avevamo difficoltà a venire avanti ad un appello, a chiedere aiuto, a fare una chiamata e dire, non avevamo difficoltà ad accettare i gruppi in casa nostra, a far parte di un gruppo. Però oggi è cambiato tutto, il gruppo, oh, e se quello c'è il Covid. Ed è chiaro, è giusto che abbiamo fatto bene a proteggerci, a premunirci, ma ho la sensazione che le cose siano andate oltre. Vuoi venire a servire in chiesa? Ehi, cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? La Chiesa di Dio è chiamata a vivere nell'entusiasmo. Amen? Ci ho depresso a sufficienza? Ora parliamo dell'entusiasmo. Perché la terapia per tutto quello che ci sta accadendo post-Covid è l'entusiasmo. E l'entusiasmo non è una sensazione, non è uno stato emozionale transitorio, non è uno mi sento bene, sono felice, c'è il sole, ho entusiasmo. No, l'entusiasmo è uno stato psicologico. Ascoltami bene, si vive entusiasmo partendo dalla mente. Stamattina voglio dimostrarti che Dio ti ha creato, ti ha creata non per la preoccupazione, lo sai? Che non sei stato creato per la preoccupazione. Lo sai che non sei stato creato per la paura? La paura, la preoccupazione e l'ansia sono delle risposte a quello che viviamo. Quindi noi non siamo stati creati per questo, ma ovviamente ci proteggiamo e quindi reagiamo. Però siamo stati creati per vivere entusiasmo. E siamo stati creati per vivere entusiasmo sempre grazie ad una particella piccolissima che c'è nel nostro sistema nervoso, non so quanti l'amano, io l'amo, è l'amigdala. L'amigdala è stupenda, provvede alla gioia, provvede all'entusiasmo. Voglio spiegarti bene che cos'è l'entusiasmo, però prima di spiegarcelo ti voglio fare una domanda. Sei una persona entusiasta o no? Da 1 a 10? Chi più di 5? Chi è più di 5 se ne può andare? Devono rimanere qui tutti quelli dei 5 in giù, okay? Perché non hai bisogno, no, bugia, hai bisogno di questo messaggio. Chi mi conosce sa che io sono entusiasta per natura. È vero? Chi mi conosce lo sa. Proprio c'è una cosa nuova, io sono entusiasta. C'è un progetto nuovo, io sono entusiasta. Io mi sveglio e sono felice. Io, quando dormo la notte, che è raro, ora, però, io mi sveglio e sono entusiasta. Qualcuno mi dice di un progetto, io sono entusiasta. Guardo qualcuno, vedo qualcuno, io sono entusiasta. Poi magari lo scoraggiamento si fa strada dopo, ma io mi sveglio e sono entusiasta. E sapete che questo è una parte del nostro carattere che ha a che fare con la parte più bambinesca di noi. È essere un po' bambini. Perdonatemi, ma io non cambierò. Io voglio rimanere entusiasta, io voglio mantenere quell'atteggiamento che i bambini hanno di essere felice per tutti. Tu regali una caramella ad un bambino? Come sono i bambini? Super felici, super entusiasti. Perché? Perché hanno ricevuto un regalo, perché è bello, perché è un dono, semplicemente perché rompe la routine, perché rompe una regola molto probabilmente, ma noi siamo stati creati per l'entusiasmo. L'entusiasmo ci protegge, volete sapere da che cosa? Dalla depressione, dagli attacchi di panico, dalle fobie, da alcuni disturbi del sonno. Oi, vuoi dormire meglio? Sii entusiasta durante il giorno. Perché? Perché l'entusiasmo ti stanca e quindi poi dormi meglio. È proprio una sostanza che viene rilasciata nel nostro corpo con delle endorfine, con tutto il nostro sistema si mobilita per farci vivere l'entusiasmo. Ci sono state delle ricerche che dicono che l'esposizione all'entusiasmo, ad una vita entusiasta, predispone verso tumori, verso ansia, verso disturbi specifici, verso dipendenze. Oh, chi vuole una dose massiccia di entusiasmo oggi? Amen. Sei qui, forse stai combattendo con una dipendenza, con la depressione, con l'ansia. Oh, fratello, sorella, cara mia, caro mio, viviamo, riprendiamoci l'entusiasmo. Ci piace? Dio ci ha creati per essere entusiasti. Ovviamente va protetto l'entusiasmo, va sviluppato l'entusiasmo. E ti voglio dire un po' quali sono appunto i benefit dell'entusiasmo e quali sono invece i disagi dell'entusiasmo. L'entusiasmo come farmaco potente riduce l'insorgenza di malattie mentali, tiene alto il livello energetico dell'organismo. Quindi se sei entusiasta, ti muovi meglio, sei più veloce, sei più performante. Migliora la qualità del sonno. Ci aiuta ad essere migliori problem solver. Cioè vuol dire che davanti ad un problema, l'entusiasmo ti dà la carica per risolvere meglio quel problema. Perché? Perché non ti metti nell'atteggiamento mentale di perdente o di preoccupazione o di come faremo ora, ma ti mette nell'atteggiamento mentale di oh wow, ce la faremo, oh wow è difficile però dai, fa ritenere possibili delle cose che sono difficili e dà la spinta per farlo, e questo lo vedremo con due personaggi della Bibbia. Emerson ha detto che niente di grande fu mai compiuto senza l'entusiasmo. Che cosa ammazza l'entusiasmo? La routine. Fare sempre la stessa cosa. Svegliarsi la stessa mattina, alla stessa ora, mangiare le stesse cose, mettersi gli stessi vestiti, fare sempre la stessa strada, avere sempre gli stessi orari. Ovviamente la routine ci aiuta, ma anche ci toglie l'entusiasmo. Sara, ma come faccio? La mia vita è molto routinaria. Immetti motivi di entusiasmo all'interno della tua routine. Non possiamo sempre cambiare la routine. Non è che domani dici il mio lavoro non mi dà entusiasmo, ecco lo cambio. No, non è così. Però possiamo provare a cambiare l'atteggiamento che abbiamo verso quel lavoro. E quindi magari semplicemente i bagni del tuo lavoro sono profumati e puliti e puoi vivere entusiasmo nell'andare al bagno del tuo lavoro. Che dici? Oppure il tuo lavoro ti fa fare una bella strada piena di alberi o di verde, allora puoi essere entusiasta dell'andare a lavoro. Poi magari la fabbrica è grigia, ma almeno puoi goderti di un po' di pezzettino di strada, o il tuo lavoro magari ti fa incontrare persone. E allora hai la possibilità di condividere Gesù. Molti dei lavori non danno questa possibilità, allora puoi essere entusiasta del tuo lavoro. Un altro ammazza entusiasmo è la paura. Avere sempre paura di quello che non sappiamo, di quello che può accadere, di quello che ci succederà, di quello che è il momento, di quello che è wow. La preoccupazione, la paura ci ha tolto la possibilità di programmare, ne abbiamo già parlato, l'immaginazione, la possibilità, il peccato. Sara, perché il peccato ci toglie l'entusiasmo? Perché sottometterci al peccato apre la porta ad una serie di emozioni, di sensazioni, di posizioni spirituali, il senso di colpa, fino a quando non andiamo dal Signore, l'essere accettati. Ecco, prima che chiediamo perdono, non ci può essere entusiasmo nella nostra vita. Quando il peccato abita in noi, è in grado di demolire la nostra identità in Cristo. Per riconoscere il pentirsi dal peccato, ci regala un entusiasmo in quelli che siamo in Cristo Gesù. Nella nostra identità nuova, rinnovata, accettata e piena di grazia. Amen? I lutti. Non so chi di voi ha vissuto un lutto, come ho insegnato qualche tempo fa, un lutto è anche un grande cambiamento. I lutti ci tolgono entusiasmo, riducono la vista, ci tolgono la visibilità su quello che è il futuro, su noi, sugli altri. Lutti drammatici, traumatici, ci tolgono entusiasmo. Quello che stiamo vivendo anche attraverso post-pandemia, guerra in Ucraina. Come ci fa sentire quando abbiamo visto quel corridoio di persone che dovevano essere salvate e invece non sono state salvate? Come ci ha fatto sentire questo? Ti toglie l'entusiasmo. Svegliarti la mattina e dire ma questo sta accadendo qui alle porte di casa mia. Questo toglie entusiasmo. Conflitti. Wow, svegliarsi ed essere in quella situazione di tensione, di rabbia, di rancore, di nervosismo, di guerra tra persone, con la Chiesa, tra moglie e marito, tra genitori e figli, questo ci toglie l'entusiasmo. Ci toglie quella gioia, quell'entusiasmo. La mancanza di alimentazione dell'entusiasmo. Lo sai, quando siamo a digiuno di entusiasmo, ora non so chi di voi fa diete, ma le parole negative sono esattamente una dieta per l'entusiasmo. Avere persone intorno che perennemente ti parlano con negatività è una dieta dell'entusiasmo. Io ho amato moltissimo la predica del pastore la settimana scorsa, che era, com'è? Sì, intenzionale, diciamolo insieme. Ultima, più importante di tutto, taci. Se non puoi dire una cosa buona, meglio tacere. Le parole sono un importante fuoco per l'entusiasmo, quanto le parole negative sono un importante secchio d'acqua per l'entusiasmo. Ehi, circondati di persone che alimentano il tuo entusiasmo. Voglio farti leggere l'etimologia della parola entusiasmo, per questo sto predicando sull'entusiasmo, perché non sto parlando di un'emozione passeggera. L'etimologia della parola entusiasmo è questa. En theos, che significa Dio dentro. L'entusiasmo non ha a che fare con un'emozione passeggera, è con l'avere Dio dentro di noi. Per questo possiamo avere entusiasmo. L'entusiasmo passeggero, che è circostanziale, che è mi va bene la giornata, che è, ho tutte le persone che amo intorno, che è, sono felice per il mio lavoro, mi piace la mia forma fisica, guadagno bene, quell'entusiasmo finisce, non appena finisce quella circostanza. Ma il vero entusiasmo, entheos, cioè Dio dentro, quello rimane. Ci può essere entusiasmo a venire in chiesa dopo 20 anni? Sì! Perché? Perché è Dio che mi porta in chiesa. Oh, chiesa, io stamattina ho deciso se andarmene al mare, ce l'avevo di fronte a casa, o se venire nella mia amata chiesa. E io amo la mia chiesa. C'è entusiasmo nel venire qui. E non c'è entusiasmo perché è bellissima, è profumata, anche è bellissima, è profumata, chi mi sente predicare sempre il mio motto è la mia chiesa è la più bella di tutte. Però anche io so che varcando quella porta troverò quella persona, quella situazione, quel conflitto, quella preoccupazione, ma se Dio è in me, io ho entusiasmo nel mettere piede lì. Amen? Se Dio è in me, io ho il coraggio di lasciare il mio letto comodo e di non seguire la chiesa online, ma di venire qui. Se Dio è in me, io ho il coraggio di lasciare lo scorrimento di Facebook cercando la chiesa che mi si confà meglio, che mi sta meglio addosso, e mi vado ad inserire in un corpo, in una famiglia che non è perfetta, sai perché? Principalmente perché ci sei tu e ci sono io, ma non perché c'è Gesù, perché Gesù è perfetto sempre. E devo imparare. Devo agire, devo stare nelle relazioni. Due storie allucinanti. Ora io devo chiedere perdono a tutta la chiesa perché mi sono persa in 2 Samuele, non so a che capitolo siamo. Perdono. Dove stiamo? 12. Io sono rimasta uno. Due esempi di uno. Sono arrivata a 2 Samuele, però voglio prendervi 2 esempi da 1 Samuele. 1 Samuele 4. L'abbiamo letto sicuramente, che storia allucinante. Sappiamo quello che è successo, no? C'era Eli, questi 2 figli scansa fatiche, Ofni e Fineas, che già dai nomi te ne devi andare, che voglio dire, grazie a Dio è arrivata Anna che ha fatto la sua preghiera, Dio gli ha dato un miracolo, Samuele lo ha consacrato perché ha mantenuto quell'impegno e Samuele è cresciuto alla presenza di Eli, ma è cresciuto con un ascolto della parola del Signore molto chiara. Neanche Eli aveva quell'ascolto di Dio così chiaro come è arrivato a Samuele, però intanto c'erano Ofni e Fineas come sacerdoti e durante questo momento il popolo di Israele ha dovuto combattere diverse guerre, in particolar modo con i Filistei. Sta guerra con i Filistei veramente ce la portiamo da non so quanti libri e ce la porteremo per quanti libri ancora, però ad un certo punto leggiamo insieme al verso 3, 1 Samuele 4 al verso 3, quando il popolo fu tornato nell'accampamento gli anziani di Israele dissero: perché oggi il Signore ci ha sconfitti davanti ai Filistei? Facciamo una cosa, un'idea entusiasta. Andiamo a Silo, prendiamo l'arca del patto del Signore perché essa venga in mezzo a noi e ci salvi dalle mani dei nostri nemici. Una buona idea? Una buona idea, tutto sommato una buona idea. Il popolo quindi mandò gente a Silo e di là fu portata l'arca del patto del Signore degli eserciti, il quale sta fra i cherubini, e i due figli di Eli, Ofni e Fineas, erano là con l'arca del patto di Dio. Quando l'arca del patto del Signore entrò nell'accampamento, ascolta ora, tutto Israele alzò grida di gioia che ne rimbombò tutta la terra. Oh, chiesa, immaginiamoci, abbiamo perso una guerra, ci viene un'idea straordinaria, se portiamo l'arca sicuramente vinceremo. Solo che il cuore di chi combatteva non era allineato con l'arca. Il cuore di chi portava l'arca non aveva nessun senso delle cose spirituali. Ofni e Fineas non avevano capito niente della presenza di Dio. E quindi c'è stato un entusiasmo, le grida di gioia. E immaginate, quelle grida di gioia hanno impaurito il popolo dei Filistei. Andiamo avanti. I Filistei, all'udire di quelle alte grida, dissero: che significano queste grandi grida nell'accampamento degli ebrei? E seppero che l'arca del Signore era arrivata nell'accampamento. I Filistei ebbero paura, perché dicevano: Dio è venuto nell'accampamento, ed esclamarono: guai a noi, perché non era così nei giorni passati. Guai a noi, chi ci salverà dalle mani forti? Chi ci salverà dalle mani forti di questi dei potenti? Questi sono gli dei che colpirono gli egiziani di ogni sorta di flagelli nel deserto. Un altro po' avevano più consapevolezza i Filistei di cosa significasse l'arca del Signore che il popolo di Israele stesso. Siate forti, Filistei, e comportatevi da uomini affinché non diventiate schiavi degli ebrei come essi sono stati schiavi vostri. Comportatevi da uomini e combattete. E i Filistei combatterono. E Israele fu sconfitto. E tutti fuggirono verso la sua tenda. La disfatta fu enorme. E fra gli israeliti caddero 3.000 fanti. L'arca del Signore fu presa. Furono sconfitti, Ofni e Fineas morirono. Quando loro padre fu avvertito, morì anche lui di crepacuore, così come aveva predetto anche Dio a Samuele, verso Eli. Quindi che cosa hanno fatto? Tanto entusiasmo, ma l'entusiasmo che è vuoto non provoca nessun cambiamento. Il popolo di Israele, Ofni e Fineas, non avevano capito niente della presenza di Dio. Era un pro forma, era un essere, non so, era un puntare all'enalotto. Prendiamola l'arca, vediamo se accade qualcosa di buono. Non era comprendere le cose di Dio, non era avere dentro Dio, non era guardare all'idea che Dio aveva di quelle cose. Era solamente un gratta e vinci. Era proviamo a vedere quello che succede. E la disfatta fu enorme. Per questo l'entusiasmo senza Dio non dura niente, non ha nessuna conseguenza positiva. Però voglio farti leggere quello che è successo dopo. 1 Samuele 7, qualche capitolo più avanti, da 1 a 14. Quelli di Kiriat Yarim vennero a prendere l'arca del Signore, la portarono in casa di Abinabab sulla collina e consacrarono suo figlio Eleazar perché custodisse l'arca del Signore. Dal giorno in cui l'arca era stata presa dai Filistei era passato molto tempo, 20 anni. Che disfatta! Tutta la casa di Israele alzò lamenti verso il Signore. Ascolta ora. Allora Samuele parlò a tutta la casa di Israele e disse: se davvero tornate al Signore, ecco il vero senso delle cose spirituali, ecco il vero senso di Dio dentro. Non è portiamo l'arca, non è superstizione, non è toccare il corno o mettersi il crocefisso al collo, ma guardate qui. Se tornate al Signore con tutto il cuore, cosa significa tornare al Signore con tutto il cuore? Samuele lo sapeva bene, Eli no, e neanche i suoi figli. Togliete di mezzo a voi gli dei stranieri e gli idoli di Astarte, volgete risolutamente il vostro cuore verso il Signore e servite Lui, Lui solo. Allora Egli vi libererà dalle mani dei Filistei. E guardate ora, i figli di Israele hanno capito che l'entusiasmo di una vittoria poteva venire da delle decisioni radicali. Così i figli di Israele torsero via gli idoli di Baale e di Astarte e servirono il Signore soltanto. Poi Samuele disse: radunate tutto Israele a Mispa e io pregherò il Signore per voi. Essi si radunarono a Mispa, attinsero dell'acqua, la sparsero davanti al Signore, digiunarono e quel giorno dissero: abbiamo peccato contro il Signore. Ehi, chiesa, Samuele aveva capito le cose di Dio, le aveva dette al suo popolo, aveva dato un input, però anche il popolo aveva risposto. Non ci parla un po' diversamente dell'ascoltare la predica? Oh, quante prediche incredibili abbiamo avuto in questi 2 anni. Quante prediche incredibili puoi ascoltare su Facebook? E che le ascolti? Se le hai ascoltate, sai come ti posso chiamare oggi? E scusa se ti offendo. Ofni e Phineas. Non possiamo chiamarci diversamente. Perché non abbiamo una chiara visione di quelle che sono le cose spirituali. Il regno di Dio, Chiesa, ha delle regole precise. Non si può giocare con il regno di Dio. La sua presenza è santa. Se c'è la sua presenza, non possiamo rimanere come siamo. Se c'è la sua presenza e se chiediamo alla sua presenza di riempire la nostra casa o di guidarci in una scelta o di vincere una battaglia o di conquistare un territorio, aspettati che Dio ti parli. E per favore, ubbidisci. Non cambia niente se non ubbidiamo. Ecco che cosa è successo qui. Il vero entusiasmo è Dio dentro. E avere consapevolezza delle cose di Dio e rispondere alla chiamata di Dio. Quello che è successo è che Samuele fu giudice dei figli di Israele a Mispa. I filistei seppero che i figli di Israele si erano radunati a Mispa e i loro principi salirono contro Israele. I figli di Israele lo seppero, ebbero paura dei filistei di nuovo. È giusto, sei in una battaglia. Ma dissero a Samuele: ascolta ora, guarda com'è cambiato. Non cessare di pregare per noi, il Signore, affinché il Signore nostro Dio ci liberi dalla mano dei filistei. Non era quell'entusiasmo, che bello, mangiamo, beviamo, l'arca del Signore è con noi. No, ehi, pentiti nel cuore, riscattati, cambiati. Non cessare di pregare per noi. E quello che succede è che Samuele prese un agnello da latte e lo offrì intero in olocausto al Signore, gridò al Signore per Israele, il Signore l'esaudì. Ascolta bene, mentre Samuele offriva l'olocausto, in segno di adorazione, di consacrazione, i filistei si avvicinarono per assalire Israele, ma il Signore in quel giorno fece rimbombare dei tuoni con gran fragore contro i filistei e li mise in rotta, non dovettero nemmeno combattere. Il Signore ha combattuto davanti ai suoi figli per l'entusiasmo vero, che è un entusiasmo radicale. Tanto che essi furono sconfitti davanti ad Israele. Gli uomini di Israele uscirono da Mispa, inseguirono i filistei e gli dettero pure il colpo di grazia. E allora Samuele prese una pietra, Samuele sapeva come si faceva con le cose di Dio. Samuele mise una pietra lì e disse: io chiamerò questo posto Ebenezer. Perché? Perché qui il Signore ci ha soccorsi. La potenza viene da Dio, la gloria torna a Dio. Questo è l'entusiasmo delle battaglie vinte. Questo è avere Dio dentro. L'entusiasmo vuoto è circostanziale e non ci porta da nessuna parte. L'entusiasmo vero ci fa conquistare grandi territori. Amen, Chiesa. Voglio darti un altro consiglio, perché ognuno di noi si possa togliere la definizione di Ofni e Phineas. Due persone, entusiasti veri, di quelli da carta d'identità. Ti leggo un attimo, Numeri 14:24. La Bibbia ha descritto di loro, quando c'è nella carta d'identità segni particolari, queste due persone, la carta d'identità diceva animati di uno spirito diverso. E questi sono Giosuè e Caleb. Che cosa è successo? Il popolo di Israele, lo sappiamo, l'abbiamo letto da poco, il popolo di Israele stava per andare a conquistare la terra promessa, ma davanti agli anni di promesse le spie hanno controllato che quella terra fosse buona. 12 spie, 10 con un report negativo, 2 con questo. Se il Signore ci è favorevole, no scusate, il paese che abbiamo attraversato, Giosuè 14 al verso 8, il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese buono, è molto buono. Se il Signore ci è favorevole, ci farà entrare in quel paese e ce lo darà, perché è un posto dove scorre latte e miele. Soltanto non vi ribellate al Signore, anche loro. L'entusiasmo ha a che fare con l'ubbidienza, l'entusiasmo ha a che fare con la radicalità. Quando accettiamo dei compromessi nella nostra vita, la nostra visione delle cose spirituali si fa più miope e per questo l'entusiasmo cade, perché non riusciamo a vederle. Ma quando l'entusiasmo ci carica ed è pulita la nostra visione dal peccato, allora riusciamo a riconoscere perfettamente qual è il piano di Dio. E siccome lo vediamo, allora siamo entusiasti. Perché? Perché il nostro Dio è quello che ci fa entrare nel posto che ci ha promesso. Amen. Ma il mio servo Caleb è stato animato da un altro spirito. Mi ha seguito pienamente, perciò io lo farò entrare nel paese nel quale è andato e la sua discendenza lo possederà. Amen. Chiesa, voglio concludere questo messaggio dandoci degli input per come ritrovare l'entusiasmo. Il primo, torna a Dio. Dovunque tu sei, qualsiasi chiesa online, io ho un problema con le chiese online, chiedo perdono a Dio, ma non sono vere, non è chiesa, vieni qui, senti la mia puzza, senti quanto sono stonata, vieni qui, chiaro, se hai bisogno, se non c'è una chiesa dalle tue parti, se stai cambiando chiesa perché hai scelto delle cose specifiche, però se stai scegliendo online la chiesa che ti piace di più, io ho un problema con te. Scrivimi e ne parliamo, ok? Torna a Dio, alla sua verità, alle sue promesse. Torna a sposare la sua causa. Torna a sposare la causa di Cristo. Quando sposi la causa di Cristo, la sua visione entra nella tua. E allora tu non vedi più con i tuoi occhi, tu vedi con i suoi occhi. Quelle situazioni, quelle persone, quel conflitto, quella preoccupazione, non è più io cosa devo fare, ma è Lui cosa vuole fare. E non siamo chiamati a far sposare a Dio la nostra visione. Noi dobbiamo sposare quella sua, sebbene possa essere molto differente da quella nostra. Sposa la sua visione delle cose. Puoi avere una visione precisa. Sapete, la mia valutazione, la mia razionalità, la mia conoscenza, quest'anno compierò 40 anni, sono diventata matura quasi nel fare delle valutazioni consapevoli. Le mie valutazioni sono estremamente accurate. Però sai una cosa, non sono tutto. Non sono tutto. Le tue valutazioni non sono tutto. Lo sai, vero? La valutazione di Dio, la sua visione, quella è vera. Amen? Ubbidisci con tutto il tuo cuore, con tutto il tuo cuore. Prendiamo il consiglio di Samuele, se torniamo al Signore con tutto il nostro cuore, significa togliere ogni altra idolatria. Cosa c'è sul trono? Amarezza? Toglila. Metti Dio. Cosa c'è sul trono? Preoccupazione? Toglila. Metti Dio. Cosa c'è sul trono? Malattia? Toglila. Metti Dio. Cosa c'è sul trono? Preoccupazione, ansia, paura? Toglila, metti Dio. Qualsiasi cosa significhi per te questo. Qualsiasi cosa significhi per Lui questo. Confessa. Confessa i peccati. Confessa i peccati. Chiedi perdono. Chiedi perdono a Dio, chiedi perdono alle persone, chiedi perdono alla Chiesa, chiedi perdono al pastore. Riunisciti, togli questa distanza tra te e Dio, tra te e la Chiesa, tra te e i pastori, tra te e le persone. Ancora, alimentati bene, non fare la dieta dell'entusiasmo. Alimentati bene, la parola di Dio, l'avere un tempo con la parola di Dio, l'avere un tempo di adorazione, il venire in chiesa, frequentare persone buone, ehi, frequentare persone che alimentano il tuo entusiasmo, fallo, quella è una fonte, quella è una fonte. E contemporaneamente proteggiti, proteggiti. Se c'è un momento in cui tu non riesci ad influenzare, perché l'ultimo punto è influenza, c'è un momento, ognuno di noi lo sa, c'è un momento in cui possiamo influenzare, c'è un momento in cui i nostri argini sono troppo delicati e non riusciamo ad influenzare, ma siamo influenzati. Quello è il momento in cui dobbiamo proteggerci. Quello è il momento in cui dobbiamo dire al Signore: Signore, dammi sapienza con chi devo stare e dove devo stare. E se devo eliminare delle relazioni, se devo prendere un tempo da questa situazione o da questa persona, allora lo devi fare. E poi puoi tornare ad influenzare. Quando gli argini sono più forti, quando sei meno vulnerabile, allora devi tornare ad influenzare, devi tornare ad influenzare. Perché? Perché tu sei un'alimentazione per l'entusiasmo degli altri. Tu sei un'alimentazione per l'entusiasmo degli altri. Amen. Chiesa, riprendiamoci quello che il Signore vuole darci. Forse anche prima del Covid non eri proprio un campione di entusiasmo. Non è mai persa l'occasione, non è mai detta l'ultima parola. Quindi andiamo a alzarci in piedi e io prego che questo tempo possa essere un tempo proprio di riflessione, di riconsacrazione, di chiedere al Signore: Signore, dov'è finito il mio entusiasmo? Chi me l'ha rubato? Cosa me l'ha rubato? Però voglio tornare a te. Voglio tornare a te, Signore, voglio riappropriarmi dell'entusiasmo di essere chiesa, dell'entusiasmo di essere corpo, dell'entusiasmo di essere intimo e unito a mio fratello, a mia sorella, alla chiesa. Voglio tornare a servire con entusiasmo. Quanti di noi vogliono tornare a servire con entusiasmo? Non ci faccio alzare le mani, ma io sento il bisogno di tornare a servire con entusiasmo. Io voglio tornare a servire con entusiasmo. Io ero nel team della Servolution, no? Ma è difficile per me venire il sabato. E ho detto ad Elisa: Elisa, mi dispiace, ma non riesco. Dai, per un parrucchiere sarei venuta a Modugno di sabato pomeriggio? Sì. Amen. Grazie Pino, è vero. Perché non devo farmi 50 chilometri di strada per venire a pulire la chiesa? Cos'è cambiato in me? Ha cambiato l'entusiasmo di servire, ve lo sto confessando, chiedo scusa ad Elisa per non aver mostrato entusiasmo in questo servizio. Perché non lo possiamo fare? Questa è una chiesa a Modugno, ma di persone che non vivono a Modugno. Quindi farci chilometri per servire è nel nostro DNA. Non possiamo aspettarci che le persone di Modugno servano tutta la chiesa, ma questa è una chiesa a Modugno con persone di altri paesi. Anche a Motto la stessa cosa, forse ci stai seguendo online e ti devi fare chilometri per servire. Ehi, riprendiamoci questo entusiasmo, perché non ce lo chiede nessuno, ce lo chiede Gesù. Questo è nel nostro DNA. Amen. Vogliamo prendere del tempo, avremo un tempo di adorazione ora. Riprendiamoci questo entusiasmo. Amen. Facciamo subito un'azione. Forza, c'è spazio qui davanti. Se senti che devi proprio lasciare andare delle cose per riprenderti il tuo entusiasmo durante questo momento di lode che avremo, vieni avanti o vai nel corridoio. Proprio spostiamoci dai nostri posti in segno proprio che vuoi cambiare questa cosa, che vuoi che il Signore ti tocchi. Forza, vieni. Se vuoi che qualcuno preghi per te, alza una tua mano e tutti i capigruppo e chiunque vuole può venire a pregare per te. Però facciamo un'azione. Ci va. Comincia ora. Non aspettare che la musica muova le emozioni. Non è l'emozione della scelta. È l'entusiasmo e stare con Dio. Qui la prima fila è tutta vuota, c'è spazio. Vieni avanti, vieni al centro. Adora Dio. Adoriamo Dio, siamo alla sua presenza. Chiediamo allo Spirito Santo di parlare al nostro cuore. Forse devi ricongiungerti con qualcuno ora. Vai. Forse devi ricongiungerti con i pastori. Andiamo. Forse devi ricongiungerti col tuo capogruppo. Vai ora. Se sei lontano da queste persone con cui devi ricongiungerti, manda un messaggio, fai una chiamata. Forza Chiesa, siamo le nostre mani, adoriamo Dio. C'è ancora spazio, venite avanti, veniamo avanti nei corridoi.